Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora vediamo subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiarisco che non parleremo della TAV, oggi è un argomento, ahimè, di cronaca, gli scontri violentissimi tra i no TAV e la polizia. Sapete anche la posizione di questo programma sulle opere infrastrutturali, ne parleremo più avanti comunque con il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia. So che è una posizione che crea, personalmente ha sottoscritto, anche parecchie critiche, insulti da parte di molti ascoltatori. Le opere di interesse nazionale, o meglio internazionale, perché qui parliamo del corridoio 5, cioè da Barcellona a Kiev, che deve passare anche per l'Italia, altrimenti i francesi e i tedeschi sono già pronti a fare il corridoio 5 al di là delle Alpi, e quindi significherebbe tagliare fuori la direttrice Torino-Trieste per quello che sarà il corridoio, uno dei corridoi di interesse europeo, Trans-European Network si chiamano, è un corridoio fondamentale per il trasporto merci e passeggeri, pur con il massimo rispetto di chi abita nel luogo, con le compensazioni del caso, con tutte le precauzioni del caso. L'opera, a nostro avviso, va fatta. So che non è una posizione che è sempre condivisa, ma va fatta. Ci sono opere su cui abbiamo espresso in tempi non sospetti dubbi molto forti, penso a quella del ponte sullo Stretto di Messina, ma in questo caso in ballo c'è il ruolo geoeconomico dell'Italia per i prossimi anni e le opere non si possono valutare solo nel breve termine. 349-238-6666 per i vostri sms. Al di là della TAV, come vanno i mercati? Più 0,80% Milano, più 0,36 Parigi, meno 0,11 Francoforte, più 0,52 scusatemi Londra, più 0,70 gli Stati Uniti. In recupero alcuni bancari, ma non recuperi sufficienti, soprattutto continua a calare pesantemente Fondiere Assai dopo i prezzi di sconto sull'aumento del capitale di oltre il 40%, il titolo perde l'8,60% a 2,12 euro. Male oggi di nuovo Monte dei Paschi, meno 3,47% a 51 centesimi di euro per azione, in pregilo meno 0,70. Poi abbiamo alcuni titoli bancari che recuperano qualcosa dopo i tonfi di venerdì scorso e anche dei giorni prima, anche di giovedì e di tutta la settimana scorsa. La Popolare di Milano recupera il 3% a 1,54 euro, Azimut il 2,42 euro, ancora Intesa San Paolo più 1,60, Mediobanca più 1% e poi il Banco Popolare più 1% anch'esso. Infine segnaliamo anche l'Automatica più 2,60, Fiat più 1,90 e Prismian più 1,42%, euro a quota 1,4270. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, partiremo subito con il giudizio sulle agenzie di rating che tanto sta facendo discutere a livello europeo e sulle manovre possibili. E poi, anche perché oggi è il giorno in cui la differenza, purtroppo, tra quanto rende un'obbligazione italiana e una tedesca, lo spread, si chiama in gergo, ha toccato un nuovo record storico, 222 punti, il 2,22%. Siamo, lo dico con la massima prudenza, ma ci stiamo avvicinando a un livello spagnolo. La Spagna è al 260 punti, 260-280, noi siamo 222, speriamo che sia solo, diciamo, un fuoco fatuo e non l'inizio di una tendenza. Per quello che riguarda, sapete che più rendono le nostre obbligazioni, peggio è per noi, non solo perché ci tocca pagare di più per trovare dei finanziatori per il nostro debito, ma anche perché significa che un paese è ritenuto leggermente più a rischio, più aumenta il rendimento del suo debito. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, parleremo di agenzie di rating e poi del mondo dell'acciaio. Oggi qui a Sole 24 Ore è in corso l'assemblea di Federacciai, c'è anche la presidente Confindustria Emma Marcegaglia, il ministro dello sviluppo economico Romani, un settore importantissimo. L'Italia è il secondo produttore d'acciaio in Europa dopo la Germania, parliamo di 40 miliardi di giro d'affari e 65 mila addetti, un settore che, da cui arriva qualche buona notizia, nel senso che anche nei primi 5 mesi dell'anno il recupero c'è stato ed è superiore alla media europea. Poi il commento anche su quello che è successo venerdì in borsa, giovedì ma soprattutto venerdì in borsa, crollo di alcuni titoli bancari per un'ora, la Consob che vuole fare chiarezza, insomma i mercati pronti a saltare su qualunque speculazione. Anche di questo parleremo subito nelle notizie in breve. Ancora sulla TAV, sì, ho sentito questa mattina l'opinione dell'economista Ponti, che è stato ospite nostro già altre volte, è contrario alla TAV, dice che non serve, va benissimo, era ospite di Oscar Giannino questa mattina, a Radio 24 chiaramente. Ripeto, la posizione di chi conduce questo programma sul Corridoio 5, che ha ragione un ascoltatore, è da Lisbona a Kiev, non da Barcellona a Kiev, comunque Lisbona e poi Barcellona e poi Torino fino a Trieste, Kiev, è fondamentale a mio avviso per tenere l'Italia agganciata ai traffici merci in primo luogo, più ancora che passeggeri, europei. E non è un caso, ripeto, che i francesi e i tedeschi siano già pronti, se l'Italia non andrà avanti, a farsi il loro corridoio al di là delle Alpi. Comunque, oggi il presidente francese Sarkozy ha detto che bisogna evitare l'agonia della Grecia e del Portogallo, ma di questo parleremo adesso in apertura. La Deutsche Bank ha detto che il contagio sarebbe peggio di Lehman Brothers, però in una rubrica che potremmo chiamare a volte ritornano, la Banca Mondiale ha nominato oggi Madeleine Antoncic nuovo vicepresidente tesoriere. Beh, chi è Antoncic? Beh, è il manager, colui che a Lehman Brothers doveva occuparsi della gestione del rischio, complimenti visto che la banca è fallita, e curerà l'attività della Banca Mondiale nei mercati finanziari. Sì, devo dire che insomma questi non pagano mai. Comunque adesso parliamo di spread e quant'altro e di temi legati anche al mercato. Vorrei far ascoltare però due commenti su quello che arriverà giovedì dal Consiglio dei Ministri. E mi riferisco alla manovra finanziaria, dovrebbe valere complessivamente 40-43 miliardi spalmati in 4 anni, l'ammontare quest'anno dovrebbe essere di circa 7 miliardi. Ministro Paolo Romani, questa mattina all'assemblea di Federchimica Milano, al microfono il nostro Fernando Mancini, che in realtà è un collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. C'è sempre un po' di discussione su una manovra, soprattutto questa che è particolarmente complessa. Crosetto, che è un amico, forse ha segnalato un malessere, ha parlato a titolo ovviamente personale, ma penso che giovedì il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione collettiva sulla manovra. Ci sarà probabilmente una delega alla riforma fiscale, ci saranno tanti altri provvedimenti, ne stiamo discutendo e ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, quindi è una manovra particolarmente complessa e articolata. Sì, che diventa sempre più complicata anche perché poco fa è tornato sul tema, già l'aveva dichiarato ieri sera, insomma, il leader della Lega, Umberto Bossi, ha ribadito che la Lega si opporrà all'innalzamento dell'età pensionabile. La presidente Confindustria Marcegaglia, la bozza Tremonti è interessante, vedremo dove arriveranno i tagli. Avete visto sui giornali in questo fine settimana che nella bozza che è circolata della manovra predisposta dal ministro Tremonti ci sono anche e sono anche previsti parecchi tagli alle spese della politica. Speriamo che non siano solo annunci. È a Marcegaglia. Dobbiamo fare una manovra da 40 miliardi, tre quarti della spesa pubblica è fatta da pubblico impiego, sanità e pensioni, quindi bisogna toccare quelle voci, bisogna farlo con attenzione. Ricordo che sul pubblico impiego, se noi guardiamo cosa è successo tra il 90 ed oggi, le retribuzioni sono salite del 44% e quello nel privato della metà, del 20%, quindi insomma c'è stata una dinamica molto più favorevole nel pubblico impiego piuttosto che nel privato. Sulle pensioni già alcune manovre sono state fatte dal Paese, però insomma, dobbiamo un po' seguire quello che si sta facendo in Europa, e sulla sanità io penso che l'utilizzo dei costi standard possa portare a delle riduzioni importanti. Quello che è stato fatto fiscale? Sulla riforma fiscale ovviamente noi pensiamo che vada fatta, è quello che può dare crescita. Oggi si parla di approvare una delega fiscale, è importante che però nel giro poi di alcuni mesi questa delega fiscale si trasformi in vera e propria riforma fiscale, quindi abbassamento della pressione fiscale secondo noi su chi tiene in piedi il paese, cioè lavoro dipendente e imprese. Così la Presidente Confindustria sulla manovra. Intanto ringrazio, perché ci ha raggiunto in collegamento, Jean-Paul Fitoussi, economista francese, professore all'Istituto d'Études Politiques di Parigi, insegna economia internazionale a Louis di Roma, è stato consigliere di Sarkozy ma anche di governi italiani. Buonasera professore. Buonasera. Le faccio ascoltare, poi con lei parliamo di quello che sta capitando in Europa, agenzie di rating, la Deutsche Bank che dice attenzione, se non salviamo la Grecia è peggio di Lehman Brothers, Sarkozy che dice bisogna evitare l'agonia di Grecia e Portogallo. Però le faccio ascoltare una cosa che in realtà è molto italiana, anche se riguarda la Francia, la linea Torino-Lione. Lei sa che questa mattina ci sono stati degli scontri molto grossi con la polizia, c'è una parte di opinione pubblica che non vuole il lavoro della galleria, che deve collegare il lato italiano a quello francese. I francesi sono già avanti, e due dichiarazioni, quella della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e del Commissario Europeo Tajani. Faccio solo notare una cosa: se l'opera non parte, doveva partire entro il 30, comunque vediamo se vi sarà uno slittamento, l'Italia rischia di perdere tutti i fondi europei per costruirla, perché insomma questi fondi sono vincolati alla partenza del cantiere. Tra l'altro la Commissione Europea oggi ha fatto sapere che l'apertura del cantiere, ecco perché oggi bisognava aprirlo, potrebbe non bastare, e quindi non a scongiurare il rischio di una perdita praticamente sostanziale, quasi totale, dei fondi della Commissione Europea. E tra l'altro adesso bisognerà, oltre all'avvio dei lavori per la galleria, anche firmare il nuovo progetto preliminare e il nuovo accordo tra il governo di Roma e il governo di Parigi. Emma Marcegaglia sugli scontri oggi contro la TAV, microfono al nostro Paolo Riva. Invece è d'accordo che il governo e il ministro Maroni abbiano deciso di andare avanti e di avviare questo cantiere, anche perché se noi non avvieremo il cantiere entro fine giugno, quindi oggi è il 27 giugno, noi perderemo i finanziamenti europei. Sono anni che si parla di questo, l'accordo e il confronto con le popolazioni locali c'è stato anche un cambio di tragitto, quindi mi pare che ci sia stata tutta la giusta attenzione che serve per un'opera di questo tipo. Adesso bisogna decidere, bisogna andare avanti, sarebbe inaccettabile perdere appunto i finanziamenti e non fare un'opera che è un'opera fondamentale per collegare l'Italia all'Europa, e quindi non lasciarla in qualche modo fuori dai grandi circuiti internazionali. E poi, come dicevo, anche il commissario Tajani, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, che ha avvertito attenzione, avanti con i lavori oppure non arrivano i finanziamenti europei. Sempre al microfono del nostro Paolo Riva. Mi sembra sbagliato cercare di bloccare dei lavori che non danneggiano il territorio, perché c'è stata tutta una consultazione previa, una serie di incontri. Perdere più di 600 milioni di finanziamenti comunitari sarebbe un errore madornale, perché poi quei 600 e passa milioni dell'Unione Europea sono un volano per la realizzazione di un'opera infrastrutturale importantissima, come si sta peraltro facendo dall'altra parte per il progetto prioritario che dovrebbe collegare Berlino a Roma. Fermare il progresso quando non ci sono dei danni all'ambiente, come è stato dimostrato anche per la TAV, la Lione-Torino, mi sembra un errore. Allora, Jean-Paul Fitoussi, adesso parliamo dell'agenzia di rating dei governi francese e tedesco, ma mi dica una cosa, ma in Francia quando ci sono le opere infrastrutturali, i comitati, diciamo, che si oppongono, com'è che vengono gestiti? Perché noi qui sulla Torino-Lione è da 10 anni che andiamo avanti. Ci sono due questioni distinte che sono poste da questo problema. La prima è la disponibilità dei fondi europei, ma non è questa la questione la più importante. La questione più importante è l'utilità di queste opere infrastrutturali. E io credo che queste opere sono molto importanti perché si sa anche dallo studio del passato che le infrastrutture di trasporto hanno avuto un effetto molto forte sulla produttività. Dunque, il problema è di sapere come funziona la democrazia. Se il governo è in carica dell'interesse generale e va avanti quando crede che il progetto è buono, o se si ferma quando c'è un gruppo di pressione qualsiasi che si oppone al progetto. E dunque è così che si deve pensare questa vicenda. In Francia si prova di farlo, ma non dico che la Francia non ha rinunciato ai progetti perché ci sono gruppi di pressione forte, l'ha fatto, ha rinunciato a progetti, a riforme per questo gruppo di pressione, ma qui io credo che come si parla di un progetto a lungo termine che modifica l'infrastruttura di trasporto in Europa e che va a avere una grande esternalità su tutta l'economia, sia italiana che europea, un gruppo di pressione non dovrebbe poter fermarlo. No, no, ma infatti oggi così non è successo. Dico una cosa anche a chi scrive. È vero che 600 milioni sono una quota del valore complessivo dell'opera. Ma io dico, non è questo l'importante. No, no, ma lei dice... Il progetto. Io su questo non ho dubbi, nel senso che se tutti i paesi europei stanno costruendo i loro corridoi europei, Trans European Networks, l'Italia ne ha due, il 5 che è quello più importante, appunto il Lisbona-Kiev, poi c'è anche quello dell'area balcanica che passa da Bari, ma in parte anche navale, che è il corridoio 8, ma insomma il 5 è quello fondamentale perché collega, passando attraverso la parte più produttiva del paese, ripeto, da Torino a Trieste, collega l'est Europa con l'ovest, o l'ovest con l'est, è uguale. Ecco, restare tagliati fuori da questo significa fare un regalo ai francesi e tedeschi che non possiamo permetterci. Devo dire che i francesi, per canto loro, sono molto avanti con la parte della galleria che è di loro pertinenza, quindi siamo in ritardo noi. Allora, invece, veniamo ai temi che lei tratta più comunemente. La settimana scorsa è stata, professor Fitoussi, un'altra settimana di gloria per le agenzie di rating, no? Hanno mosso i rendimenti delle obbligazioni, hanno messo sotto osservazione anche il debito italiano quello due settimane fa, poi le banche italiane con cali e tonfi di borsa. Perché lei ce l'ha così tanto con le agenzie di rating? No, bisogna essere serio. L'agenzia di rating, dopo aver rovinati i piccoli risparmiatori con la bolla finanziaria, con la crisi finanziaria, adesso provano di rovinare i lavoratori, perché le agenzie di rating forzano i governi ad avere politiche fiscali più rigorose di quelle che si devono fare, e la conseguenza di queste politiche molto rigorose e che la disoccupazione aumenta, la precarietà aumenta, e dunque basta, perché se le agenzie di rating erano responsabili, allora un po' di danno che hanno fatto devono pagarlo, ma non è stato il caso fino ad oggi e continuano a fare danni più grossi, perché se tutta l'Europa si mette al pane secco perché le agenzie di rating hanno la fantasia di credere che l'Europa è diventata insolvabile, che non è il caso da tutto, perché sappiamo che l'Europa è situazione finanziaria molto migliore di quella degli Stati Uniti e del Giappone, allora non possiamo accettare questo. È la ragione della mia rabbia. Bisogna cambiare questo funzionamento dei mercati finanziari e non lasciare un gruppo fatto dalle agenzie di rating avere un'influenza così forte senza nessuna responsabilità e nessun controllo. Allora, spesso ci chiedete chi sono i soci di queste agenzie, chi le comanda. Allora, per quello che riguarda Fitch, i due azionisti sono il gruppo francese FinMalk e la società editoriale Hearst. Moody's dentro ha la Berkshire Hathaway, che è sostanzialmente del finanziere Warren Buffett, e poi ha una lunga serie di pesi massimi della finanza, di fondi, Fidelity Management, Capital Research, BlackRock, State Street, Vanguard, partecipazioni che vanno dal 10 al 3%. Nel caso di Standard & Poor's, che è la terza di queste agenzie che danno i voti ai paesi e ai privati, l'azionista si chiama McGraw-Hill e tra i suoi soci ci sono molti di quelli che sono anche in Moody's, il fondo Capital World Investor, BlackRock, Vanguard, Fidelity Management. Quindi sono i fondi di investimento, i grandi fondi internazionali. Domanda, mi faccia difendere le agenzie di rating. Allora, lei dice, insomma, in questo momento con la loro logica rischiano di obbligare i governi europei a fare manovre più dure, quindi con maggiore pressione fiscale o con maggiore tagli di quello che è necessario, perché l'Europa non è, a parte la Grecia, messa così male come gli Stati Uniti. Però, voglio dire, professor Fitussi, l'agenzia di rating ha anche la funzione di mettere in guardia, lei non è che va a condannare, dà un suo voto, è un soggetto privato che dice: secondo noi l'Italia oppure la Germania oppure la Francia hanno un debito in peggioramento, cioè fanno il loro lavoro. No, ci sono qui anche due cose da distinguere. Le agenzie di rating fanno il loro mestiere dentro il quadro giuridico che esiste oggi. Questo quadro non va più. Questo quadro non va più, perché hanno un'influenza troppo grande, perché non ci sono altre referenze. E dunque il problema è di modificare il quadro giuridico, non di sopprimere le agenzie di rating. Loro fanno quello che fanno tutte le imprese, provano di guadagnare soldi, quello è normale. Ma il problema è che quando un gruppo di tre agenzie ha un potere così grande che ha la tutela di fatto sui stati, c'è qualcosa che non va. Cioè, soprattutto quando si è visto che queste agenzie si sono sbagliate molto fortemente con la crisi finanziaria. Sì, Lehman Brothers. C'è qualche cosa che non va. Non è la responsabilità, direi, delle agenzie, non è la responsabilità dei stati, è la responsabilità del quadro giuridico che deve essere modificato. Dall'inizio io ho detto, adesso c'è un bisogno, dall'inizio, dal 2008, io ho detto che adesso bisogna modificare le regole del gioco per le agenzie di rating. Non possiamo continuare così. Ecco, lei non possiamo lasciare le cose andare così. Lei che cosa immagina? Nel senso che la Cina ha detto, per esempio, mi farò la mia agenzia di rating. Allora c'era stata anche un'ipotesi di dire l'Europa sviluppi una sua agenzia indipendente, perché sennò siamo nelle mani dei fondi di investimento americani, sostanzialmente Standard & Poor's e Moody's, questo sono, che sono molto duri con l'Europa, anche con l'America, hanno messo in guardia l'America, però è vero che il deficit americano è al 13% e quello europeo, quello italiano, lei ha sostenuto in un'intervista pochi giorni fa su Sole 24 Ore che l'Italia non ha problemi né di liquidità né di solvibilità. Che soluzione immagina? Ci facciamo la nostra agenzia di voto europea? Io credo che bisogna semplicemente introdurre una responsabilità. La responsabilità sulla base di quello di quello che dico. Lasciamo le cose come sono, sì. Lasciamo questo settore privato, ma mettiamo delle clausole come l'abbiamo fatto per gli auditing, le imprese di auditing, che fa che loro sono responsabili sui loro soldi di quello che fanno. Quindi lei dice che se un'agenzia di rating fa calare il mercato, perché per esempio dice che l'Italia gli abbassa il voto, crea un danno economico, e così se poi si è sbagliata deve pagare, non so, vorrei capire il meccanismo. Sì. No, prendo un esempio ancora più semplice. Sì. Se le agenzie di rating dicono che questo titolo è un triplo A, sì, ma che l'indomani il titolo vale zero, allora le sia di rating sono responsabili. Quindi da noi avrebbe pagato Standard & Poor's nel caso di Parmalat e tutte le agenzie nel caso di Lehman Brothers, perché Lehman Brothers tenne i voti. Mm-hmm. Quindi lei dice, se avete dato almeno un po' di responsabilità, così loro fanno il loro mestiere in modo più analitico, più pensato, più riflessivo. Non so se mi... No, chiaro. Beh, non è un'idea sbagliata, a mio avviso, perlomeno non tanto fare pagare in caso di giudizio negativo, perché uno può mettere in guardia e poi sbagliarsi, sì. Però se tu mantieni un giudizio positivo da investment grade, come si chiama in gergo, cioè da livello ancora buono per gli investimenti, e poi il titolo chiude, fallisce, la società va a gambe all'aria e anche l'agenzia di rating deve essere chiamata in correità a rispondere del giudizio che ha dato. Ah, secondo me non ce la facciamo, perché il potere di Wall Street è troppo forte, Fitoussi. Ma possiamo cominciare in Europa a fare una legge europea. Poi, A fare una legge europea. Bene, senta, quando Sarkozy oggi dice attenzione, bisogna evitare l'agonia di Grecia e Portogallo, vuol dire che la Francia sta spingendo sulla Germania ancora di più perché si arrivi a un pacchetto d'aiuti? La Germania un giorno li vuole, un giorno non li vuole sti aiuti. Ma questo è il problema europeo. Il problema europeo è che non ci sono decisioni. Un giorno c'è un rumore e il giorno dopo c'è il contrario. Dunque basta con questo, non possiamo, noi siamo in Europa e dunque condividiamo un minimo di solidarietà tra i paesi e dunque non si può lasciare andare soprattutto i popoli di questi paesi, il popolo greco, il popolo del Portogallo, in quasi inferno, perché con una disoccupazione enorme, con un reddito che va giù, non si può accettare questo perché abbiamo un livello di ricchezza molto alto. In una battuta suggerisce un ascoltatore, perché non obbligare le agenzie di rating a comprare i titoli che giudicano? Questo potrebbe essere già una punizione, così se sbagliano. Sì, ci sono tante possibilità di modificare, ma le agenzie di rating non sono delle banche. Il problema è di modificare il quadro giuridico. Il punto è molto chiaro, tu non puoi dare giudizi da fuori, che se va bene, bravo, se va male distruggi titoli in borsa, distruggi risparmi, e poi tanto tu non paghi mai perché tu fai solo l'agenzia, dai un voto da fuori, grazie e arrivederci. Fermo restando il loro ruolo, la loro utilità, però non sono Dio. E quindi hanno sbagliato anche loro, e come chi sbaglia di solito paghiamo noi, pagassero anche loro. Professor Fitoussi, grazie per la lucidità che lei è propria, ce n'è bisogno. Quindi lei è a favore della TAV, è contro l'agenzia di rating, vediamo cosa diranno gli ascoltatori. Io intanto la ringrazio e do la linea al meteo, alla pubblicità, e poi chiudiamo, ecco, poi commentiamo la chiusura di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. :41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso non posso, alcuni ascoltatori dicono che non capisco nulla di treni e di infrastrutture, va benissimo, non esprimiamo giudizi politici in questo programma, esprimiamo giudizi economici, e a mio avviso la TAV è un'opera che va fatta assieme ad altre opere infrastrutturali, non è prioritario invece il ponte sullo stretto, non ho nessun dubbio a ribadirlo in maniera molto molto serena. Comunque veniamo alla borsa e poi agli altri temi. Giornata più calma oggi, più 0,70% Milano, e allora borsa sia. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dopo il venerdì nero, il giovedì marrone, il mercoledì beige, e qui mi fermo, della settimana scorsa, oggi meglio. Di nuovo male Monte dei Paschi, però sempre sotto aumento di capitale, fondiari assai, meno 9,2 fondiari assai, Monte dei Paschi meno 3,80. Sì, i titoli sotto aumento di capitale oggi hanno ancora pagato un forte dazio. Dicevi di Fondiaria Assai meno 9,22, Monte dei Paschi meno 3,75%. Se andiamo a vedere i diritti a cui vengono gli scambi sui diritti relativi ai due aumenti di capitale, vediamo che per Fonsai il diritto ha perso oggi il 26%, per Monte dei Paschi scusa il 26%, per Fonsai ha perso il 41%, per Milano Assicurazioni addirittura il 65%. Quindi diciamo c'è ancora una forte preoccupazione dei mercati sui titoli che sono sotto aumento di capitale. È proprio così, anche perché se le risparmio perdono 12,5, Milano Assicurazioni sulle risparmio perde 14,5 comunque. E invece Monte dei Paschi? Sì, per quello che riguarda Monte dei Paschi anche qui a pesare è stato soprattutto l'aumento di capitale, perché è l'unico titolo fra i bancari che ha ancora pagato dazio dopo il venerdì nero che ricordavi tu prima, mentre tutti gli altri bancari si sono mossi abbastanza in terreno positivo, recuperando alcune delle posizioni perse la scorsa settimana. Intesa San Paolo ha chiuso a più 1,17, Mediobanca più 0,85, Unicredit più 0,51%. Oggi il mercato sul settore bancario in generale, diciamo, si interrogava un pochettino dopo che nel fine settimana il gruppo dei governatori delle banche centrali del Comitato di Basilea hanno raggiunto un accordo per definire i cuscinetti di capitale aggiuntivi a carico delle banche di tipo sistemico. Si parla di cuscinetti, quindi di richieste di maggior capitale compreso fra l'1 e il 2,5%, una cosa che gli analisti hanno giudicato sostanzialmente positiva, non eccessivamente onerosa per le banche, anche se comunque alcune stime parlano di ricapitalizzazioni necessarie per le banche europee per 60 miliardi. Sì, le abbiamo lette in questi giorni. Altro titolo oggi, la Popolare Milano è il migliore in assoluto tra quelle maggiore capitalizzazione, più 3,50% dopo l'assemblea, con il via libera alla ricapitalizzazione e il no a un aumento delle deleghe voluto dalla Banca d'Italia. Sì, in questo caso questo aumento è da leggersi soprattutto come un piccolo rimbalzo del titolo, perché ha perso da iniziare che viaggia comunque, 50%. Esatto, viaggia a 1,50 euro, tanto per non sbagliarsi. Diciamo che è vero che da un lato alcuni operatori oggi facevano notare come la lettura di questa assemblea è duplice, perché se è vero che è stato bocciato l'aumento delle deleghe, quindi nuovi problemi che adesso ci saranno sulla governance dell'istituto milanese, è anche è vero che è stata approvata la ricapitalizzazione da 1,2 miliardi e questo in parte va un pochettino a compensare l'altra notizia, ed è una buona notizia perché tende a rafforzare l'istituto milanese. In una battuta lottomatica più 3% anche oggi, continua ad andare bene il mondo delle scommesse, del gioco? Sì, continua ad andare bene anche perché per fare cassa sembra che il governo vorrà ancora puntare su questo settore nella manovra finanziaria, si parla di nuove bandi di gara per i giochi, e questo ovviamente avvantaggia un titolo come l'ottomatica. Altri titoli: Azimut più 2,30, Ansaldo più 2,20, Fiat più 2, Prismian più 1,60, Generali più 1,5, Pirelli più 1,20 come Intesa San Paolo, Tenaris più 1% come A2A, Enel e Mediobanca più 0,90, Ubibanca più 0,80 come ST Microelectronics, 0,7 lo guadagna Terna, Eni e anche Diasorin e Saipem. Oltre a Monte dei Paschi, Fondiari ha perso in pregilo meno 1,1, Mediolanum meno 0,90%, Buzzi Unici meno 0,60%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, il traffico. 17:48 minuti, adesso come annunciato ci occupiamo prima di tornare poi ai mercati e agli spread, al nuovo record, ahimè, del rendimento tra quanto rende un bot italiano e l'equivalente tedesco, di un settore che sta andando bene e che vede l'Italia al secondo posto, tra i primi posti del mondo e al secondo posto in Europa. Ci riferiamo all'acciaio. E allora, come annunciato, parliamo di acciaio, che vale sempre la pena ricordarlo, vede l'Italia al secondo posto in Europa come produzione dietro la Germania, e anche qui 40 miliardi di euro di giro d'affari complessivo, 65.000 addetti. Ne parliamo perché oggi si è tenuta l'assemblea di Federacciai, che riunisce 150 imprese del settore siderurgico italiano. Si è tenuta qui al Sole 24 Ore, fra poco sarà nostro ospite anche il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia. Partiamo subito però con il presidente di Federacciai, Giuseppe Pasini. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, presidente, ne parleremo poi anche con il sottosegretario. Buoni dati oggi che avete diffuso sui primi 4 mesi dell'anno, un aumento nella produzione di acciaio dell'8,5% contro una media del 5,5% europea. Sì, un aumento dell'8,1% contro una media del 4%, vuol dire che abbiamo fatto molto meglio rispetto all'Europa, anche se nelle ultime settimane c'è un rallentamento sia a livello nazionale, europeo e mondiale, un rallentamento evidentemente a livello globale. Noi pensiamo quest'anno di arrivare sui 30 milioni di tonnellate, che è praticamente lo stesso livello di produzione del 2008, cioè prima della crisi, che per noi potrebbe già essere un obiettivo importante. Ecco, nel vostro settore si distingue tra i prodotti piani e i prodotti lunghi, poi magari ci chiarisca anche la differenza, perché sono andati in maniera un po' diversa i due comparti. Sì, allora i prodotti piani hanno avuto un aumento. Che sono quelli usati per l'industria automobilistica. Esattamente, autonomi, elettrodomestici, cantieristica, sono andati molto meglio rispetto ai prodotti lunghi, che invece sono prettamente materiali che vengono usati un po' nell'automotive, ma in particolar modo nelle infrastrutture. Quindi nelle costruzioni. Nelle costruzioni. I primi hanno avuto un aumento intorno al 26% nei primi 4 mesi, mentre i secondi hanno avuto un aumento del 7%, a dimostrazione che la crisi a livello infrastrutturale che questo paese ha, e che purtroppo, come denunciavamo anche oggi in assemblea, tanti lavori sulla carta ma pochi partiti, verosimilmente pochi partiti, ha fatto sì che un po' tutto questo comparto rimane ancora bloccato agli start di partenza. Ecco, nonostante la buona ripresa e buon recupero, voi siete ancora sotto di un 16% rispetto ai livelli del 2008, che è un po' la media della produzione industriale italiana. Lo dico perché è giusto riconoscere quando un settore è ripreso e sta recuperando, è giusto però non cantare vittoria, visto che un meno 16% rispetto al 2008 è ancora un segnale pesantissimo. Le vostre previsioni, cioè quando si tornerà ai livelli pre-crisi e che cosa sta frenando ed ostacolando questo recupero? Noi già pensiamo quest'anno di poter arrivare al periodo pre-crisi 2008, però se guardiamo le produzioni riguardo al 2006 siamo naturalmente sotto di qualche punto percentuale. Il discorso è un po' diverso, cioè abbiamo una siderurgia, quella meccanica automotive, che sta andando bene anche per effetto dell'esportazione. Cioè, sappiamo perfettamente che la meccanica in questo momento sta esportando molto in Germania e è un traino importante anche per i nostri prodotti, mentre c'è una parte della siderurgia che ancora ferma i blocchi, che è quella che è destinata prevalentemente alle infrastrutture. Quello che chiediamo noi è che naturalmente il piano infrastrutturale italiano parta, ma non lo diciamo solo perché siamo, diciamo così, coinvolti, ma lo diciamo perché questo paese è un paese che, tra lacci, laccioli, burocrazie e autorizzazioni, è un paese che veramente ha delle criticità enormi. Qui ci vuole una riforma importante, strutturale, su questo. Ultima domanda: il peso dell'energia elettrica. Voi siete per definizione un'industria energivora, quindi serve tantissima energia elettrica per le fornaci, per gli altiforni. Abbiamo visto un dato, ne parleremo adesso anche con il sottosegretario Saglia, di una bolletta energetica da record quest'anno per l'Italia. Voi continuate a subire un, un danno competitivo da una bolletta che è tra il 20 e il 30% più cara della media europea. Sì, noi abbiamo ancora una bolletta in questo momento ancora cara, anche se devo dire che questo governo, in modo particolare ringrazio l'onorevole Stefano Saglia, diciamo il gap è un po' diminuito rispetto alla media nazionale, media europea, pardon. Questo sicuramente vuol dire che il governo ha accettato anche, diciamo così, che i grandi consumatori in qualche maniera di aiutarli con ad esempio su un interconnector piuttosto che su altre cose. Sono forme abbastanza tecniche per cui non voglio entrare in particolare. Il problema dell'energia però è un problema che ha un risvolto anche sull'ambiente. Voglio solo ricordare che con il no al nucleare ormai l'Italia abbandona del tutto il nucleare, è pur vero che noi non ce l'avevamo, per cui tutto sommato facciamo energia da gas e da petrolio e da rinnovabili. La Germania sta prendendo la stessa direzione di abbandonare il nucleare, vuol dire che in termini generali in Europa ci deve essere una ridefinizione dei parametri di Kyoto. Per ridefinizione intendiamo dire non tanto l'obiettivo del 20%, che ormai è un obiettivo di per sé ormai ampiamente raggiunto, ma il fatto che alcuni paesi europei stanno tentando di andare sul meno 30 al meno 40%. Questa è una condizione essenziale anche a livello di Parlamento europeo, che invece si mantenga al 20%. Di riduzione delle emissioni che noi praticamente stiamo già raggiungendo. È chiaro che i paesi del nord con meno industria manifatturiera e meno industria energivora hanno più gioco facile nel dire andiamo a meno 30, Germania, Italia no. Grazie, in bocca al lupo all'intero mondo dell'acciaieria italiano. Grazie al presidente Federacciaio Giuseppe Pasini. Grazie a voi. Adesso c'è il GR, poi parliamo di temi legati all'energia ma anche alle infrastrutture e alla manovra finanziaria. Ne parliamo, dicevo, con il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia e poi invece la voce di un operatore arrabbiatissimo per quello che è successo venerdì scorso sul mercato tra mezzogiorno e mezzogiorno e 30, crollo dei titoli bancari e in generale molto scettico su come si stanno muovendo i mercati. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e dopo aver ascoltato le critiche e i suggerimenti dell'economista Jean-Paul Fitoussi contro le agenzie di rating, aver accennato brevemente alla TAV, aver commentato la borsa oggi in recupero tranne il Monte dei Paschi, Fondiari assai di nuovo pesanti cali su questi due titoli e aver raccontato anche un settore che comunque si sta riprendendo, mi riferisco al settore dell'acciaio. Continuiamo a parlare dei temi di casa nostra, acciaio in realtà ma anche manovra economica e TAV, con il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, presente qui a Sole 24 Ore per l'assemblea di Federacciai, che ringrazio. Buonasera sottosegretario. Buonasera a voi. Un andamento leggermente positivo, diciamo, in un settore che comunque soffre, però nel bresciano è emerso oggi dall'assemblea i segnali di l'acciaio significa soprattutto Brescia in questo paese, poi per carità c'è l'Ilva Taranto, ci sono altre realtà in altre parti del paese, ma insomma il cuore dell'acciaio è da sempre Brescia. Dicevo, segnali di risveglio, una crescita dell'8,5% nei primi 4 mesi del 2011. L'acciaio è sicuramente un settore nel quale devono essere fatti copiosi investimenti. Negli anni 2006-2007 sono stati anni molto positivi che hanno consentito alle aziende di affrontare anche gli anni orribili del 2009-2008, che sono anni difficilissimi a causa della congiuntura mondiale. Fortunatamente c'era fieno in cascina e fortunatamente gli imprenditori più avveduti hanno usato il fieno in cascina per fare degli investimenti e migliorare l'efficienza dei loro impianti. Solo quest'anno ci è capitato spesso, insomma, di inaugurare alcuni di questi impianti. Efficienza significa ridurre il costo dell'energia elettrica, ridurre il costo del gas, fare un prodotto più competitivo. E ovviamente nel momento in cui i mercati internazionali si sono mossi e hanno segnato qualche segno positivo, le esportazioni sono migliorate e quindi anche il settore dell'acciaio ne ha beneficiato. Sì, devo dire appunto una crescita dell'8,5% a fronte di una media europea del 5,7%, quindi migliore nettamente della media europea. L'andamento del nostro acciaio, che già l'anno scorso aveva fatto quasi un più 30% rispetto a un terribile 2009, ma con una buona ripresa nel 2010 più 29,8%. Tra l'altro l'Italia è con la Germania il principale produttore di acciaio a livello europeo, uno dei più importanti a livello mondiale. Noi siamo secondi in Europa, ma parliamo di qualcosa come 40 miliardi di euro di fatturato nel mondo dell'acciaio e 65 mila addetti nel nostro paese. Andiamo avanti, lei diceva il tema dell'energia. In effetti anche oggi è emerso che la difficoltà più grossa, pur con tutti gli investimenti effettuati, è un'energia che da noi costa tra il 20 e il 30% in più. Se sommiamo questo all'allarme lanciato dall'Unione Petrolifera Italiana, che ha detto nel 2011 la bolletta energetica italiana sarà un record assoluto, soprattutto per il petrolio, ma non solo, toccherà una cifra mai vista prima, il tema si pone tutto. Si pone, anche se naturalmente dobbiamo distinguere ciò che è la bolletta energetica globale complessiva rispetto a quella che è l'energia elettrica, che in questo caso l'acciaio è la principale fonte di produzione. Resta il tema che le materie prime continuano ad essere fuori controllo rispetto alla comunità internazionale. Non è proprio notizia irrilevante che la settimana scorsa abbiamo deciso di aderire alla richiesta degli Stati Uniti, che hanno richiesto a tutti i paesi dell'OCSE, di utilizzare le scorte. Cosa vuol dire? Utilizzare quella parte, diciamo, di petrolio che noi mettiamo da parte per i casi di emergenza e metterla sul mercato. Perché? Perché all'OPEC l'Arabia Saudita aveva deciso e chiesto di poter aumentare la produzione, ma gli altri paesi hanno detto no. E allora anche per sostenere la posizione dell'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC abbiamo deciso di usare le scorte. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che purtroppo il mondo occidentale, Stati Uniti in primis, non ha grandi elementi di ritorsione o comunque di ricatto nei confronti dei paesi produttori che fanno il prezzo. Avete visto che questa decisione delle scorte ha determinato immediatamente un calo del prezzo del barile. Non si può sempre fare così, perché ovviamente le scorte è la terza volta nella storia dell'agenzia, cioè dal 1972, che viene fatta una scelta del genere. Fortunatamente ha avuto un effetto positivo sui mercati, però ovviamente il problema resta quello di approvvigionarsi in questi paesi e di avere una stabilità internazionale, che purtroppo in questi periodi non c'è. Dall'acciaio agli altri settori, perché lei comunque è sottosegretario allo sviluppo economico, le chiedo, poi arriviamo in chiusura alla manovra finanziaria per quello che si è capito, però sul fronte TAV, la posizione di questo programma è molto netto, ci sono le opere, vanno fatte con massimo rispetto per gli abitanti, vanno fatte con massimo coinvolgimento delle comunità locali, con le massime compensazioni, ma vanno fatte nel caso specifico, così come noi da sempre siamo scettici sul ponte, sullo stato di Messina, pochi dubbi abbiamo avuto sul cosiddetto corridoio 5, cioè quello che è il Barcellona-Kiev, che se non si fa la Torino-Lione ci salta proprio, ci taglia fuori, passa sopra al di là delle Alpi lungo la linea, diciamo, franco-tedesca. Gli scontri di oggi sono degli scontri molto violenti. È possibile che non si riesca a spiegare anche un'opera e magari anche modificandola secondo le richieste della comunità locale in un periodo in cui sull'altro fronte lavoratori e imprese si lamentano dell'assenza di lavori pubblici, per cui notiamo che da Porto Tolle ad altri casi denunciati dall'ANCI e dai costruttori italiani, insomma, la lamentela è ci sono pochi investimenti in infrastrutture. È una situazione paradossale, non saprei come spiegarmela. La verità è che quando tu fai una concertazione con il territorio per fare un'opera pubblica, i costi aumentano in maniera sproporzionata. Questo è stato fatto sia per la TAV che per le grandi infrastrutture autostradali, la Brebemi e quant'altro, ma una volta che hai messo d'accordo praticamente il 90% dei soggetti, ci sarà sempre un 10% che non è d'accordo, ma la reazione non può essere che questo 10% impedisce a tutti gli altri di poter avere un'opera, perché questa diventa la dittatura di una minoranza. E quindi qui si è creata, a causa anche di qualche personaggio dello spettacolo che ha pensato di enfatizzare certe situazioni, che queste opere... A chi si devono... riferisce? Ma io continuo a ritenere che Grillo sia un personaggio dello spettacolo. Ah, ok. E quindi secondo me è molto pericoloso questo fenomeno, perché poi si porta anche a persone che sicuramente saranno in buona fede, io non voglio pensare che siano in cattiva fede, perché quando uno poi rischia anche la propria incolumità fisica, immagino che sia in buona fede, insomma, però è assolutamente fuori luogo. Senza quest'opera l'Italia è fuori dall'Europa, non ci sarà la possibilità di collegare grandi direttrici per le merci e per i passeggeri, e non è un caso che sia le amministrazioni di centrodestra e quelle di centrosinistra la pensano alla stessa maniera. Quindi io sì, non è un caso che i francesi e i tedeschi siano già pronti a farci il corridoio alternativo di là dalle Alpi. Io poi non capisco una cosa, me lo dico, so che su questo sono poco popolare e vedo già i messaggi al 349 238 6666. perché il tratto francese è stato fatto senza grosse polemiche. Cioè, se le valli sono importanti di qua e di là, diciamo, dallo spartiacque. Ebbene, sembra che sia solo la Val di Susa, nel caso specifico, a subire un impatto della TAV, come se dall'altra parte la galleria non sbucasse in Francia. Un'ultima domanda riguarda invece la manovra finanziaria. Vedremo giovedì, se ho ben capito, che cosa uscirà. Da quello che si è capito della prima parte, sarà molto breve, nei primi, molto ridotto l'intervento. Si era parlato di 3 miliardi, adesso sono saliti a 7 miliardi l'intervento della prima parte. Insomma, da quello che lei ha come informazioni, sarà più rilevante la parte sulla, diciamo, la rimodulazione delle aliquote fiscali o la stretta antievasione? Ma è chiaro che un paese ha bisogno che le tasse siano pagate. Al tempo stesso però stiamo attraversando un momento nel quale si dice che c'è un eccesso di controlli da parte della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e quant'altro. La lotta all'evasione non si rallenta, non si è rallentata durante il centro-sinistra, non si rallenta durante il governo di centrodestra, ormai è un elemento che continua. Poi che questo possa produrre i numeri che noi speriamo di poter produrre è tutto da verificare. Ma mi dica in totale sincerità, tanto non ci sente nessuno, ma secondo lei la manovra fiscale si riesce a fare? Secondo me la manovra fiscale si fa nel campo delle regole. Nel senso che se tu vai a ridimensionare quelle che sono le tante deduzioni, tante volte anche ingiustificate, e le ribalti sul lavoro, sul beneficio per il lavoro e sulla produzione, un effettivo beneficio ci sarà. Se lei mi chiede quanti miliardi di euro possono essere messi su una manovra fiscale, in questo momento sono molto pochi. Grazie al sottosegretario allo sviluppo economico con delega appunto anche ai temi dell'energia, Stefano Saglia. Grazie a voi. Allora, vedo ancora messaggi sulla TAV, magari rispondiamo dopo il traffico. Adesso però vorrei spostarmi di nuovo su quello che è successo venerdì, perché noi non dimentichiamo, a parte che avremmo veramente l'Alzheimer se dimenticassimo quello che è successo venerdì, ma venerdì c'è stato un movimento pazzesco sui mercati per mezz'ora circa, in cui i titoli bancari sono arrivati a perdere il 9, il 6, il 7%, e non tutti hanno digerito la cosa. C'è chi ha chiesto proprio che si intervenisse con un'inchiesta per capire come mai c'è una speculazione così selvaggia su alcuni titoli. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia. Devo ancora due risposte sulla TAV. Va bene, allora fate parlare gli abitanti della Val di Susa contrari. No, guardate, che il problema non è far parlare gli abitanti favorevoli o contrari. Col massimo rispetto, e mi sembra che gli indennizi vi siano per gli abitanti, quando un'opera ha un interesse nazionale, in questo caso ce l'ha come interesse internazionale, ma mi spiegate, e lo dico con un po' di provocazione, perché io devo ascoltare chi chiaramente può essere... è contrario perché se la vede costruire in casa, nel suo giardino. È ovvio che lì ci saranno le maggiori resistenze, ma in questo modo non avremmo fatto nulla in sto paese. L'autostrada del sole, i raccordi autostradali, cioè se vai a ascoltare chi si vede costruire il pilone davanti, è comprensibile che ti dica no, fatelo da un'altra parte, not in my backyard. Per cui non, è il motivo per cui non li invitiamo. Mi interessa capire, la TAV è un'opera importante, tutti gli economisti che sono venuti, a parte l'economista Ponti, che è da sempre contrario alla TAV, hanno detto che è fondamentale, la chiede l'Europa, il corridoio Lisbona-Kiev. Se facciamo la TAV passa anche attraverso l'Italia, se no l'Italia resta tagliata fuori e fa la fine di Malta, in questo caso non della terza economia europea. Dicevo, e poi sui costi, attenzione che i costi non sono, scrive qualcuno, 17 miliardi, i costi sono, per la parte italiana doveva costare 4 miliardi, siamo già saliti sostanzialmente a 6-7 miliardi, il resto è la parte francese che ha il 30% a carico, che ha 4 miliardi a carico, e il nostro paese ha chiesto un bilanciamento al 50-50%. I chilometri sono 250, di cui 52 km di tunnel tra Saint-Jean-Maurienne e la bassa Val di Susa, quelli contestati. Cambiamo tema perché vorrei capire cosa sta succedendo sulla borsa. E cosa sta succedendo anche ai nostri titoli di Stato? Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners, buonasera. Buonasera a voi. Prima domanda che ci lega alla cronaca di oggi. Il rendimento delle nostre obbligazioni è salito, ripeto, più un paese è a rischio, più deve offrire rendimenti alti per trovare compratori del proprio debito. La differenza tra quanto offrono i vari paesi e quanto offre la Germania, che è considerata il paese più sicuro, si chiama spread, ossia differenza, e più alta è questa differenza, più il paese è a rischio rispetto chiaramente al paese meno rischioso che è la Germania. 220 punti, cioè il 2,22%, la differenza tra quanto rende il BTP a 10 anni italiano e l'equivalente titolo tedesco. Preoccupato? Eh sì, abbastanza. Siamo tornati oltre i record raggiunti a memoria, direi a novembre di quest'anno, dello spread tra il Bund tedesco e il BTP decennale italiano. In questo momento il titolo di Stato italiano rende circa il 5%, quello tedesco rende il 2,89%, è sotto il 3%, quindi abbiamo oltre 2 punti di spread rispetto al paese, diciamo, più forte in questo momento, e non so se diciamo la tempesta è finita, insomma, ecco. Allora, sì, 220 punti non sono distanti ancora dai livelli spagnoli, però la Spagna viaggia a 270 e 280. Insomma, ma lei teme un contagio? Oggi ho visto Deutsche Bank, il numero uno, Joseph Ackermann, dire il contagio della crisi greca e portoghese sarebbe peggio di Lehman Brothers. Sarkozy ha detto bisogna evitare l'agonia di Grecia e Portogallo. Lei che tutti i giorni sui mercati ci va, non in senso fisico, ma con i terminali. Lo vede questo, ecco, per non arrivare ad andare sui mercati in senso fisico, lo vede questo contagio o no? No, diciamo, non vedo il contagio. Io penso che tutto sommato la Grecia stessa, o comunque qualsiasi paese europeo, non possa fallire. Insomma, mi sembra che siano considerazioni ancora lontane dalla realtà. Io credo che nessuno abbia fatto esattamente conti con quello che è un vero fallimento, sarebbe una catastrofe anche se fallisse più piccolo dei paesi europei, quindi non voglio parlare di contagio nel senso del fallimento, contagio nel senso dell'allargamento di spread sì, ma perché ho una visione forse un po' contraria in questo momento, nel senso non è detto che lo spread italiano sia sufficiente in quell'ambito in cui si è mosso fino adesso per soddisfare le esigenze di ritorno che esprimono i mercati, cioè l'Italia e con l'Italia i paesi più deboli, la Grecia, l'Irlanda e così via, hanno beneficiato negli ultimi 10 anni di tassi estremamente favorevoli che i loro fondamentali certo non meritavano. Dico una profonda banalità, ma Atene non è Berlino, non c'è nessuna similitudine in termini di solidità economica, di crescita economica, finanziaria, ricchezza, eccetera. Ma quel paese, la Grecia, e così l'Italia, e così la Spagna, e così tutti gli altri, hanno beneficiato dello stesso tasso di interesse che si paga. Questo grazie, è chiaro, grazie all'euro. Questo grazie all'euro. Non sono affatto sicuro i mercati da oggi in avanti si accontenteranno dello spread che questi paesi hanno pagato. Ecco, mi dica una cosa, visto che nella prima ora del programma l'economista Jean-Paul Fitoussi è stato durissimo contro le agenzie di rating, dice che dovrebbero essere obbligate per legge a rispondere di quello che dicono, se danno una valutazione positiva e poi il titolo crolla devono rispondere legalmente, un po' come le società di revisione. Le chiedo, va bene le agenzie di rating che anche a mio avviso andrebbero ricondotte a una forma, devono essere più responsabilizzate quando parlano, però i governi che peso hanno nel poi far muovere il mercato, per esempio in questo caso sulla valutazione del debito sovrano, cioè il governo italiano, guardi, secondo lei ha contribuito, o la politica in generale con debolezze sulla maggioranza, incertezze sulla manovra, ad alimentare, a buttare benzina sul fuoco di chi specula sull'Italia? Ma ne hanno molto, soprattutto di peso, soprattutto sulla componente obbligazionaria. È veramente, diciamo, un passo indietro da parte di tutti sarebbe opportuno, perché in una fase come questa a me sembra poco razionale, poco utile per il Paese, magari vedere chi ha ruoli politici importanti, magari anche ambizioni da primo ministro o qualcosa del genere, attaccare pancia a terra l'Europa, la NATO, le Nazioni Unite e addirittura l'unità del Paese. Insomma, se poi lo spread va a 2,30, non andiamo troppo lontano a domandarci perché, perché questo i mercati naturalmente lo prezzano, questi atteggiamenti un po' così, un po' leggeri, un po' poco ponderati, un po' poco responsabili forse in un momento come questo. Ecco, in certe occasioni magari un po' più di silenzio, un po' più di voce sommessa non farebbe male, anche perché i mercati, gli economisti, la BCE e tante istituzioni estremamente attente ci stanno chiedendo di farci carico del nostro debito, di farci carico... Sì, diciamo, ecco, le manifestazioni folcloristiche da campagna elettorale non in questo momento trovano... Sono molto rischiose con quello che sta capitando sui mercati. Chiudiamo proprio sui mercati, perché insomma, venerdì, io non voglio far passare la cosa, è successo tra mezzogiorno e mezzogiorno e 30, sono stati venduti i titoli bancari in Italia meno 9% Unicredit o meno 6 Intesa, poi hanno recuperato 4-5 punti. È normale una cosa del genere? È normale che un titolo bancario perda il 9 in mezz'ora e poi torni a perdere 4-5? Non so, però con tutti gli aumenti di capitale che ci sono in corso, che insomma stanno per essere lanciati in questo momento da parte delle banche italiane, mi viene da pensare anche che appunto ci siano in corso operazioni sintetiche di coperture, diciamo creazioni di posizioni diverse, contrapposte, consegni diversi, e quindi può portare a fluttuazioni così violente senza necessariamente pensare al confronto. Ma mi dia un suo giudizio da gestore sulle banche italiane, sono sottostimate in questo momento? Assolutamente sì, sono convinto che sono sottostimate, sempre che tutti facciano il loro dovere, naturalmente, sempre che tutti, dalla politica ai banchieri, ai gestori, ai risparmiatori, facciano tutti il loro dovere in maniera disciplinata, ma io credo che le nostre banche siano mediamente ben gestite, ma soprattutto se anche volessimo ragionare un po' per fantafinanza e prendere sul serio uno scenario così di degrado, sì, di scivolamento del paese, io non credo che le nostre banche potrebbero essere acquisite da banche estere a questi prezzi, perché le nostre banche, penso soprattutto alle principali, Intesa, vagano di credito, più. Molte parti hanno degli asset liquidi in portafoglio, hanno degli asset che valgono 10 volte la loro capitalizzazione di borsa. Sfido chiunque a pensare di borsa, sfido chiunque a pensare che è opportuno venderle ai prezzi attuali. Non credo che questo sia possibile, non credo neanche che accadrà. Ma è chiarissimo. È chiarissimo. Vogliamo, È chiarissimo il ragionamento. Io la ringrazio. Grazie anche quindi a Carlo Gentili, amministratore delegato di Next and Partners. Da Sebastiano Barisoni, un augurio a voi in ascolto di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.